Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Ricominciamo una nuova puntata. Ormai abbiamo archiviato con l'epifania di ieri il lungo periodo delle festività, infatti anche in borsa oggi si nota un'operatività sicuramente maggiore. Tutti quelli che avevano incassato dei bei guadagni anche nelle prime giornate dell'anno oggi si affrettano a qualche realizzo, infatti sono tutte negative le borse europee, con l'unica eccezione di Piazza Affari, perché qua stanno correndo alcuni titoli particolarmente brillante oggi il settore bancario. Adesso ve ne spieghiamo le ragioni, ma in ogni caso giornata contrastata con quadro negativo in Europa e l'eccezione di Piazza Affari. Adesso torniamo su Milano, ma andiamo al tema di cui parliamo oggi, che peraltro avevamo più volte annunciato in questi giorni e molti di voi so che lo attendevano in maniera molto attenta, soprattutto i consulenti finanziari. Allora, vi leggo quanto scrive nel suo libro Generazione No Risk, elementi di autodifesa per il risparmiatore, Orazio Carabini, che è un noto analista e commentatore del Sole 24 Ore. Pagina 58 del capitolo Il risparmiatore consapevole. Si cita in questo capitolo un'indagine campionaria condotta nel 2006 dalla Banca d'Italia sulla capacità di consumatori e investitori di prendere decisioni appropriate nella gestione delle proprie finanze. 6 le domande per misurare il grado di cultura finanziaria di base, domande che riguardavano ad esempio la capacità di leggere l'estratto conto, di misurare il rendimento di un titolo, di distinguere le diverse tipologie di mutuo. In media le famiglie hanno risposto in modo corretto al 47% dei casi. Insomma, analisi di questo tipo perché ve l'ho raccontata? Perché sono analisi di cui parliamo tutti i giorni, analisi di questo tipo vengono condotte periodicamente, ma praticamente i risultati sono più o meno sempre gli stessi. Il dialogo fra noi e tutto ciò che attiene al mondo finanziario è complicato. È una circostanza questa che induce anche a comportarci in modo a volte non appropriato con il nostro risparmio, non ci stimola neanche ad un rapporto costruttivo con il consulente a cui deleghiamo la gestione del nostro risparmio. Allora, siccome non è mai troppo tardi per imparare, soprattutto quando si tratta di aspetti così importanti della nostra vita e della nostra economia domestica, oggi che cosa abbiamo deciso di fare? Vi proponiamo un tagliando di inizio anno delle vostre finanze. Impariamo a fare una pianificazione di inizio anno della distribuzione del nostro risparmio e chi abbiamo deciso di mettervi a disposizione. Un promotore finanziario e un consulente finanziario indipendente, intanto per capire se c'è un approccio diverso nelle due modalità di fare consulenza e soprattutto anche per farci dare dei suggerimenti concreti e qualche valido consiglio per intavolare un rapporto corretto con chi dovrebbe accompagnarci nella nostra vita finanziaria. Allora, buongiorno e grazie di essere con noi e buon anno soprattutto a Corrado Latini, partner di Banca Sara, benvenuto. Buongiorno Deborah e buongiorno ai radioascoltatori. E bentornato a Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente, fondatore di Bono Plus Family Office. Bentornato a Salva Danaio. Grazie. Allora, sono a vostra disposizione, potete chiamarci all'800 24 0024, ci potete scrivere al 349 238 6666 se non volete intervenire appunto in diretta. Questa è l'opportunità e la modalità per farci delle domande attraverso l'SMS. Abbiamo già anticipato qualcosa sulla borsa di oggi, abbiamo detto che c'è un quadro prevalentemente negativo con l'unica eccezione di Piazza Affari. A Milano stamattina corre Prysmian più 2,75%, il titolo sta beneficiando di una serie di giudizi positivi da parte di analisti diversi. Unicredit più 2,03%, il gruppo poco fa ha chiuso un consiglio di amministrazione lampo, già più volte annunciato negli ultimi giorni, e ha fissato i termini dell'aumento di capitale che parte lunedì prossimo, un aumento di capitale da 4 miliardi di euro e era partito male, il titolo poi ha recuperato tutto proprio perché evidentemente sono termini che convincono il mercato. L'aumento di capitale avverrà al prezzo di 1,5890 euro per azione, saranno offerte 3 nuove azioni ogni 20 possedute appunto dagli azionisti. Poi probabilmente settimana prossima torniamo anche su questa operazione con qualche esperto e qualche dettaglio in più. Banca Monte dei Paschi più 1,82, Mediobanca più 1,80, anche Bulgari guadagna 1,5 punti. Andiamo a vedere i segni meno. Mediaset meno 1,31, Exor meno 1,13, Intesa San Paolo meno 0,9, Impregilo meno 0,8%. Rapporto euro-dollaro a 1,43,40 in questo momento. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi proponiamo ai nostri ascoltatori un tagliando finanziario di inizio anno. Stretti tra redditi immobili, rate dei mutui da pagare e un clima economico generale ancora instabile, gli italiani non sono affatto ottimisti circa la propria situazione finanziaria. Far quadrare i conti, soprattutto in tempo di crisi, è tutt'altro che semplice. I capitoli di spesa che gravano sul bilancio familiare sono molti. Ecco perché, prima di mettere mano al portafogli, è sempre bene valutare qual è la migliore soluzione per le nostre tasche. Tenere di fatto sotto controllo le spese, confrontare i servizi e i prodotti più vantaggiosi per le nostre abitudini. E lo stesso vale anche per gli investimenti finanziari. Pianificare una strategia di azione è utile per non incappare in sorprese sgradite. È in base agli obiettivi che ciascuno si prefigge che bisogna decidere come investire, non viceversa. Le variabili da considerare sono numerose, così come le opportunità e gli strumenti disponibili. In ogni caso, prima di compiere delle scelte, è bene prestare attenzione alla propria propensione al rischio, così come alle esigenze presenti e future della famiglia. Dall'acquisto di un'auto o di una casa, al desiderio di garantire istruzione ai propri figli o di assicurarsi una vecchiaia serena. E allora vi invito ancora una volta a chiamarci se volete. Oggi abbiamo a disposizione un promotore finanziario e un consulente finanziario indipendente per farvi il tagliando di inizio anno. Ovviamente non è così facile, non si può fare nella mezz'ora di tempo, nei 40 minuti di tempo che abbiamo a nostra disposizione, ma sicuramente ci possono dare tutte le indicazioni utili per capire come possiamo intavolare al meglio la nostra, non dico trattativa, il nostro dialogo col consulente finanziario che abbiamo scelto per accompagnarci nella nostra vita finanziaria. Allora, Corrado Latini, parto da lei perché era da un po' che non veniva a Salvadanaio, probabilmente l'ultima volta era venuto con Marco Lo Conte, quindi mea culpa che non lo invito più da tempo. Promotore finanziario che ha una carriera e un portafoglio ben consolidati da tanto tempo, come sta facendo il punto di inizio anno con la sua clientela? Oppure, come dire, risponde e parla con loro solo se interpellato, o li sta invitando lei in questo momento a fare un punto di inizio anno? Qual è il rapporto? Ma l'inizio anno è la continuazione dell'anno precedente, nel senso che con loro, con i clienti, si instaura sempre un rapporto di verifica degli obiettivi scelti, della pianificazione finanziaria intrapresa e soprattutto della congruità dei prodotti rispetto agli obiettivi che si è prefissati insieme. Quindi non è tanto un inizio anno quanto una fine anno, quanto un rapporto continuo che si sviluppa con il cliente nell'arco della pianificazione finanziaria scelta. Come ne sono venuti fuori i clienti da questo anno che ha sconquassato un po' tutti, con le ossa rotte? Non dico tanto nei termini dei rendimenti dei prodotti che hanno in portafoglio, magari proposti e suggeriti da lei, ma dal punto di vista emotivo è stato un anno difficile, Latini? È stato un anno difficile, senz'altro, perché nessuno fa piacere vedere degli andamenti talmente negativi, anche se ci potevano essere delle spiegazioni. Ma a quel punto l'unica difesa è il capire il perché della situazione e verificare l'andamento del proprio portafoglio in relazione agli obiettivi prescelti. Inutile farsi prendere dal panico, dall'emotività, perché è sicuramente un motivo di perdita, insomma, no? Quindi bisogna capire un po' come stanno andando i portafogli, quali sono i casi, quali sono i motivi e soprattutto quali possono essere anche le eventuali reazioni, perché chi ce l'ha fatta a investire? Chi ha mantenuto i nervi saldi? Non solo, ma poi chi ce l'ha fatta una volta tanto andare controcorrente, cioè approfittare dei mercati in saldo, visto che dal 2 gennaio siamo in saldo con a Milano, ma ci sono anche i saldi finanziari, chi ce l'ha fatta approfittarne ha visto dei rendimenti molto molto significativi. E infatti questo peraltro è un tema che abbiamo affrontato più volte in queste prime puntate dell'anno della nostra trasmissione. Abbiamo rifatto un punto delle borse da quei famosi minimi del 9 marzo dello scorso anno. Abbiamo avuto delle crescite clamorose per qualche piazza finanziaria addirittura a tre cifre, più 100%, sì, sì. Per cui certo. È chiaro che adesso qualcuno magari si morde un po' i gomiti, però anche lì fare una scelta così coraggiosa in momenti tanto delicati non è per tutti, è per gli investitori professionali, per cui anche lì magari se qualche piccolo non ha preso quelle occasioni non dobbiamo per forza di cose guardare. Ma infatti non dobbiamo neanche farci prendere l'emotività, al contrario, nel senso di avere i rimpianti per non aver fatto determinate cose. L'importante è avere ben chiaro dove si vuole andare, l'obiettivo dell'investimento, a cosa serve questo investimento e come lo si sta percorrendo, ed è sicuramente utile farlo con un professionista. Allora, perché a me è venuta in mente l'idea di fare la trasmissione sul tagliando della finanza personale? Devo dire che questa è un'idea che mi ha suggerito Stelvio Bo, poco prima delle vacanze, Stelvio. Sì. Bo, buongiorno ancora, buongiorno. Ci siamo visti e allora mi ha detto: perché non fai questa proposta ai tuoi ascoltatori? Sicuramente un momento interessante, in modo da invitarli anche a fare lo stesso con il proprio consulente. Perché bisogna farlo a gennaio? Ma gennaio è tradizionalmente un momento di ripensamento, perché è l'inizio dell'anno, come tutti gli inizi, come l'inizio della scuola, come l'inizio delle vacanze. Tutti gli inizi hanno dentro quest'idea di pianificare il prossimo futuro. E tradizionalmente, tra l'altro, nel mercato degli investimenti, sia le società di gestione, sia le banche, sia i risparmiatori a gennaio fanno un po' il punto della situazione. Per alcuni è addirittura l'unico momento durante l'anno in cui si guardano gli investimenti. Io ho clienti che mi dicono: quante volte, alla domanda quante volte guarda il portafoglio, una volta l'anno. Ecco. È probabile che chi fa così non è una buona abitudine, peraltro. Noi però generalmente diamo anche a volte il suggerimento contrario, di non essere così ossessivi nel controllo di quello che è, come dire, l'andamento del proprio portafoglio. No, certo, ma infatti io nel mio modo di lavorare imposto una verifica trimestrale formale, e poi chi invece è più appassionato, anche un po' ansioso, e vuole sapere con più frequenza come vanno le cose, può chiamare anche tutte le settimane. Però normalmente è bene fare il punto della situazione ogni 3, 6, 9 mesi, quindi alla fine dell'anno poi si tirano le conclusioni su quello che si e quindi vince. Insomma, si fa una verifica intanto se è cambiata la propria condizione familiare interna. Sì. Anche dal punto di vista reddituale, certo. E sappiamo quante famiglie sono state colpite da una crisi pesantissima nell'ultimo certo, anno. Certo, i licenziamenti ci possono essere invece le note liete, chi ha avuto un figlio o due gemelli. Esatto, e quindi bisogna cominciare a pensare subito anche a loro. Delle spese familiari, chi ha deciso di comprare da casa, di accollarsi un mutuo, di comprare la macchina o di fare di pagare l'università all'estero a un figlio, a un nipote. Quindi ci sono tante cose. Per fortuna a volte le cose cambiano, non sono sempre cambiamenti certo. In termini negativi come quello che ho citato prima, come la perdita appunto del posto di lavoro. E per cui bisogna farlo, il tagliandino, esattamente con Rado Latini come lo si fa all'auto. Assolutamente. Ecco. Anche se il suggerimento che posso dare è di avere una relazione con il proprio portafoglio, cioè non vedere una volta ogni tanto, ma di continuare a relazionarsi, appunto, verificando quali possono essere gli obiettivi di questo portafoglio, dell'investimento, e i mezzi con i quali si sta portando avanti. Quindi questo che lo volevo ribadire solo perché qualche volta mi capita anche di interfacciarmi, ci capita in questa trasmissione, con degli ascoltatori che hanno un approccio del tipo: ho fatto l'investimento, tutto magari nel portafoglio investito nel settore azionario, l'ho fatto una settimana fa, ho guardato, magari prende la settimana di borsa sbagliata e dice già è un tracollo, per cui bisogna anche capire in relazione al tipo di investimento ogni quando va fatto il controllo. Non assolutamente, è che... certo. Qui, e magari guardare anche un po' quello che capita intorno, perché qualche volta può succedere anche che c'è lo scossone di mercato che si risente sul portafogli, e quindi non è esattamente colpa magari proprio della persona che fa la consulenza, o sì? Ma guarda, la persona che fa la consulenza è un po' come la guida di montagna. Allora, se uno vuole fare la passeggiata che fanno anche i nonni o quei bambini piccoli, non c'è bisogno della guida. Uno compra i bot e sta tranquillo tutta la vita, però ha dei rendimenti molto scarsi. Che adesso sono praticamente anche al di sotto dello zero. Esatto, perché... insoddisfacenti. Se uno invece vuole divertirsi veramente, godere della montagna e... per analogia, quindi avere qualche rendimento in più, fa qualche passeggiata un po' più impegnativa, magari una ferrata, però deve farla con qualcuno che lo guida, altrimenti rischia di mettere il piede dove non sa. Tra l'altro, no, un'altra cosa che volevo dire e che forse non abbiamo fatto, pur avendola promessa, promessa perché va fatta, una precisazione anche sul ruolo diverso, le motivazioni per cui ho chiamato il promotore finanziario e il consulente finanziario indipendente, perché sono due figure diverse, e quindi siccome ad ognuno di noi magari può capitare di interfacciarci con l'uno piuttosto che un altro, o magari c'è chi addirittura non conosce per niente l'esistenza soprattutto del consulente indipendente, che è sostanzialmente nuova per il nostro paese, e poi vi faccio fare anche il biglietto da visita da parte di Corrado Latini e Stelvio Bo. Sentiamo però anche un ascoltatore, sentiamo su che cosa ci stimola. Giuseppe dalla provincia di Padova, buongiorno, benvenuto, buon anno, ho terminato. Buongiorno, tutti gli auguri. Buongiorno, vi ascolto sempre, siete veramente in gamba. Grazie Giuseppe. Senta, io volevo soltanto sapere una cosa, io i miei risparmi una volta li tenevo, cioè me li investivo in una banca, banca di credito cooperativo. Sì. Siccome però le proposte erano sempre soltanto quelle di botto, CCT o roba del genere, e allora mi sono rivolto a un promotore finanziario. Questo promotore finanziario è una persona molto in gamba, però da tutto questo è successo circa 10 anni fa. Sì. Nell'arco di 10 anni i miei soldi sono rimasti gli stessi più o meno. Mm. Cioè, all'inizio ho guadagnato e guadagnavo parecchio. Successivamente, siccome io mi sono sempre fidato di lui, nel senso di gli ho dato carta bianca, diciamo, sì, ecco, sì, lui sì. Investiva, faceva, vendeva, acquistava, un po' di tutto, così, ecco. Volevo sapere, è una cosa normalissima, cioè devo ritenermi fortunato per una roba del genere, oppure, allora, perché ho sentito altre volte che tanti hanno perso... Infatti, le sembra niente aver protetto il suo capitale, poi bisogna vedere anche il rapporto all'inflazione, in realtà qual è stato il grado di rendimento maturato, comunque una protezione completa del suo capitale, le sembra un risultato del tutto insoddisfacente, Giuseppe? Però vedo già che tentennano i miei interlocutori, sì. Sì, perché io ritengo, per esempio, siccome io non sono una persona capace di poter leggere i mercati, conoscere, eccetera, io mi sono affidato a una persona che quando, per esempio, non so, ci sono, sai che c'è un periodo che ci sono dei rischi, qualche volta, per esempio, io stesso ho chiesto, ascolta, ma mi pare che queste Telecom, per esempio, vanno piuttosto male, è possibile venderle visto che hanno riacquistato? Ma no, bisogna lasciare là perché così, dopo un poco di tempo è diventato il valore di questi Telecom Risparmio, per esempio, è arrivato un valore da circa un terzo di quello che valeva al suo allora tempo. Giuseppe, io la devo fermare perché mi devo dare la linea alla regia perché abbiamo il meteo e un pochino di pubblicità. Comunque sicuramente un caso molto interessante da commentare con gli ospiti di questa mattina. Ovviamente non possiamo intervenire sui singoli titoli, ma comunque possiamo prendere questo esempio per così commentare un po' l'approccio generale sulla gestione del suo risparmio. 800 24 00 24, ancora per continuare a prenotare i vostri interventi, ritorniamo tra pochissimi minuti. Salva Danaio. Siamo ritornati in diretta. Allora, questa mattina abbiamo deciso di proporre ai nostri ascoltatori un tagliando dei propri investimenti, un punto della situazione di inizio anno, mettendo a confronto le strategie diverse, ma magari possono anche collimare in certi punti, cioè comunque essere condivise in certi punti, da due figure professionali diverse e forse non tanto diverse. Stamattina lo scopriremo. Stelvio Bo, consulente finanziario indipendente, fondatore di Bono Plus Family Office, e Corrado Latini, partner di Banca Sara. Avevo promesso anche un bigliettino da visita per far capire le figure con le quali ci interfacciamo, interloquiamo questa mattina i nostri ascoltatori. Stelvio Bo, cosa fa un consulente finanziario indipendente e soprattutto che cosa fa la sua società? Allora, un consulente finanziario indipendente aiuta le persone a investire bene i propri risparmi, a proteggere il patrimonio familiare e a dare un rendimento consono al profilo di rischio che la persona che si presenta vuole avere. Parlando dell'esempio che ci ha prospettato prima l'ascoltatore, direi che nel rapporto con il consulente bisogna sempre chiarirsi, specie a lungo termine, per un periodo di 10 anni, dove si vuole andare, e certamente bisogna far meglio di quello che si farebbe comprando i titoli più semplici e più sicuri, cioè i titoli di Stato. Quindi ragionando che nell'arco di 10 anni il titolo di Stato può dare un rendimento, diciamo, fra il 3 e il 4%, bisognerebbe almeno far meglio di così. Questo è il parametro su cui va valutato un buon consulente. Allora, lei l'ha già citato, il caso dell'ascoltatore che ci ha raccontato la sua situazione prima della nostra pausa, Giuseppe da Padova. Lui dice: io ho affidato 10 anni fa i miei risparmi ad un promotore finanziario perché prima, servendomi solo dello sportello bancario, avevo solamente titoli di Stato. Era una proposta molto limitata, per cui ho voluto un po' ampliare anche i miei orizzonti finanziari attraverso questo tipo di consulenza. Eppure in 10 anni mi ritrovo lo stesso capitale investito 10 anni fa. Io ho fatto un'osservazione, ma non è contento, quantomeno anche con gli scossoni degli ultimi 2 anni, di aver protetto il capitale. Lui dice di non essere soddisfatto, e devo dire che su questo punto, su questa osservazione che ho fatto, mi stanno massacrando un po' di ascoltatori. Ce n'è uno stamattina particolarmente divertente, Sergio da Milano, che dice che stiamo facendo una trasmissione inutile perché non diamo dritte sui titoli. Corrado Latini, da dove cominciamo? Da Sergio o da Corrado o da Giuseppe da Padova? Ma finirei con Giuseppe, dicendo che è in buona compagnia sul mercato, purtroppo, questo ascoltatore, perché questa situazione è frutto molto spesso di una di una involontaria ma non completa sintonia, forse con gli obiettivi non palesati al professionista, nel senso che non sempre viene indicata effettivamente, ad esempio, la paura di perdere oppure la volontà di guadagnare comunque, oppure non sempre viene palesata anche la possibilità di dover correre qualche rischio di oscillazione di capitale per ottenere delle performance molto più significative del mercato. Esempio per tutti: se i tassi oggi sono lo 0,4-0,5% come tasso di sconto, ottenere su obbligazioni anche il 2-3% vuol dire avere rendimenti dei 3 o 4 volte superiori rispetto al tasso di sconto, quindi lavorare al 3-400% sopra il free risk cosiddetto. E quindi è chiaro che uno, per avere delle performance ad un certo livello, qualche rischio, qualche scommessa deve farla. No? L'importante è capire poi il gioco delle parti, cioè l'importante è capire fino a che punto io mi voglio spingere per ottenere che cosa, e questo uno deve anche, è un rischio che deve calibrare un po' col proprio professionista. Quindi l'invito che io faccio è sicuramente essere magari più schietti, più franchi, più completi e più esaustivi nel fine tuning, no? Cioè nella pianificazione della propria, del proprio investimento. Anche perché col promotore. Credo che magari per questo ascoltatore, lo dice, ha un rapporto con il suo promotore da 10 anni, sia ormai anche dal punto di vista umano un po' difficile essere molto schietti, nel senso che forse gli può dire sì, io non sono molto soddisfatto di quello che stai facendo, ma un rapporto di 10 anni significa probabilmente aver costruito anche un po' un'amicizia, allora qualche volta sia un po' più di pudore, ma se ci sono i nostri denari di mezzo forse... Ma assolutamente sì, allora l'amicizia nel nostro mestiere credo sia importante, ma non sia la base di un rapporto di successo, nel senso che le cose bisogna dirsele, nel senso che io posso conoscere un cliente per come è e per come ci divertiamo insieme andando a sciare, ma le sue necessità finanziarie magari sono ben altre, per cui l'invito è assolutamente quello di confrontarsi continuamente rispetto a quelle che sono le esigenze della pianificazione finanziaria. L'hanno fatto fare il biglietto da visita. Banca Sara, non vediamo gli sportelli in giro, io per Milano, ma probabilmente anche in giro per Italia, perché è una società che fa... È una banca online, che offre ai propri clienti tutta una serie di servizi per appunto fare nel modo migliore possibile quello che abbiamo detto fino adesso, cioè all'interno di un panorama di investimenti ampissimo che vanno dal cosiddetto free risk fino agli investimenti più speculativi, individuare quelli che possono meglio rispondere alle esigenze di ogni singola persona fisica. Ma l'importante non è tanto poi rispondere alle esigenze del momento, quanto verificare l'andamento, o meglio la rispondenza di questi prodotti nel tempo rispetto anche al variare delle esigenze del cliente stesso. Un'altra cosa da dire è che secondo me il margine di la distanza tra il consulente dipendente e il promotore finanziario ad un certo livello è abbastanza labile, perché comunque di fondo ci deve essere comunque l'attenzione alle effettive esigenze di un cliente, all'effettiva rispondenza tra le soluzioni proposte e le esigenze palesate. Una volta di più l'invito a palesarle le esigenze, cioè a dire di che cosa uno ha paura di un investimento, a dire effettivamente quali sono i suoi livelli di reddito, perché vuol dire che tipo di tolleranza una persona può avere anche rispetto a delle volatilità di mercato più o meno ampie. E no? Raccontare se per esempio si ha l'intenzione di cambiare lavoro piuttosto che di modificare anche, che ne so, la città in cui si vive, e anche le abitudini, le più piccole, quelle che magari ci sembrano poco importanti da raccontare, possono essere delle variabili invece estremamente significative nella gestione del portafoglio degli investimenti. Assolutamente sì, nello stesso modo in cui quando vado a comprare un vestito mi faccio prendere le misure. Perché altrimenti probabilmente prenderò sempre un vestito con i pantaloni troppo lunghi o con le maniche troppo corte piuttosto che la giacca troppo larga. Quindi, Volevo ritornare, sempre prendendo a spunto il caso di Giuseppe da Padova, a Stelvio Bo, perché questo è come dire un cavallo di battaglia del proprio modo di fare la consulenza indipendente, e questa la si può vedere anche negli esempi che Bono Plus fa sul sito, se qualcuno lo volesse andare a visitare, perché lui parla appunto di un arco temporale di 10 anni. 10 anni fa ha attivato questo rapporto con il suo consulente finanziario, con il suo promotore finanziario, e probabilmente, come anche suggeriva Corrado Latini, non è stato detto con grande chiarezza quello che ci si aspettava da quel tipo di investimento o dai diversi investimenti, dal giardinetto dei propri investimenti sottoscritto. Allora, primo errore forse non definire e quantificare i propri bisogni, da questo si deve partire per poter anche correttamente avere un rapporto costruttivo con il proprio... Ma come si fa a definire i propri bisogni? La situazione nostra non la conosciamo né da qui alla prossima settimana. Beh, non è proprio così, nel senso che tutti facciamo piani su dove andremo in vacanza quest'estate, perché non possiamo fare piani su come useremo i nostri soldi. Poi è chiaro che, come diceva il mio professore di greco, il futuro è in grembo a Giove, per cui l'uomo propone, Dio dispone, però è anche vero che un progetto di matrimonio piuttosto che un progetto di acquistare una casa, un progetto di avere figli, un progetto di andare a fare l'università all'estero e così via, è un progetto che si fa, si può fare, normalmente tutti lo facciamo. Quindi la prima domanda che io faccio ai miei clienti o potenziali clienti è questa: qual è il patrimonio che voi pensate di non toccare per vostre esigenze, adesso evidenti, per i prossimi 5 anni? Mm-hmm. Io utilizzo come benchmark, come punto di riferimento questo tempo di 5 anni, perché mi sembra abbastanza lungo per poter fare tutta una serie di cose a vantaggio del cliente, e abbastanza breve per non rimandare la cosa alle calende greche prima di fare il punto vero della situazione, dato anche l'andamento dei mercati. Uno dovrebbe sapere se i 50.000, 100.000, 2 milioni di euro che ha da parte gli serviranno nell'arco dei prossimi 5 anni. E allora incontro ovviamente situazioni molto diverse. Certo. C'è qualcuno che dice: guarda, io vorrei aiutare mio figlio che fra 3 anni probabilmente si sposa, già la fidanzata, si sta laureando, prenderà un lavoro, a comprare la casa. Quindi di quei 500.000 che ho messo da parte, 200 li darò a lui per pagare una quota della casa che comprerà. E quindi su quelli voglio che siano disponibili con sicurezza fra 3 anni. Questo è un primo discorso. Sul resto si può fare una programmazione più articolata, e su tutto o su una parte si può andare a cercare delle occasioni più interessanti, che però hanno magari bisogno di un po' più di pazienza per maturare. Ci possono essere 3 o 6 mesi nei quali l'investimento non dà immediatamente rendimenti sperati. Mm-hmm. Però poi dopo arriva, se la scelta è fatta bene. Mm-hmm. Stelvio Bolle, capita di ritrovarsi tra le mani un cliente che vuole la sua consulenza e che evidentemente arriva da lei magari con un giardinetto di prodotti investito, questo giardinetto è tutto sbagliato per lei? Non sempre, non necessariamente. Io infatti ho dei prodotti da specialisti, come per esempio la Morningstar Advisor Workstation, che mi servono per valutare i fondi, perché gran parte dei prodotti che incontro nei portafogli dei miei clienti è fatta di fondi, e con quelli io posso analizzare la storia del fondo, il profilo del gestore, il rating che Morningstar dà, o Morningstar piuttosto che Lipper, o piuttosto che un'altra delle agenzie di valutazione dei fondi. E quindi comincio a inquadrare la situazione, a paragonarla con quello che hanno fatto gli altri fondi nella stessa categoria, e a paragonarla quando c'è con il benchmark. Immediatamente il cliente si rende conto se il prodotto che ha avuto è un prodotto mediocre o buono. Benissimo. Tra l'altro, a proposito di fondi di investimento, volevo già segnalare ai nostri ascoltatori che domani ritorneremo alla nostra bella abitudine di fare Salvadanaio con la collaborazione dei colleghi di Plus 24 del Sole 24 Ore. La loro storia di copertina di sabato prossimo sarà dedicata proprio al bilancio dell'industria dei fondi di investimento per il 2009. È in assoluto il primo bilancio dell'anno che esce, e abbiamo delle belle sorprese, perché sembra che gran parte dei fondi di investimento analizzati abbiano battuto i benchmark di riferimento, gran parte, quasi il 50%, forse il 43%, situazione inedita che non si vedeva da anni. Quindi forse anche questo è un segnale che l'industria del risparmio gestito si sta risollevando, sta rialzando la testa in maniera abbastanza importante dopo la debacle appunto degli ultimi 3 anni. Ci dobbiamo fermare, vogliono intervenire assolutamente i miei ospiti, si stanno divertendo molto. Abbiamo anche 2 ascoltatori che gestiscono il loro risparmio in maniera radicalmente diversa: Marco da Genova e Piera dalla provincia di Lodi. Chiedo anche loro un attimino di pazienza, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. Allora, ascoltiamoci, sì, poi spieghiamo anche agli ascoltatori dove poter reperire la consulenza del consulente indipendente qualora volesse questa, e però insomma gran parte dei nostri ascoltatori sono ancora seguiti dai promotori finanziari che fanno bene il loro lavoro, perché qualche volta quando introduciamo il tema del consulente indipendente ci sono molti promotori, Corrado, Latini, che si piccano un po' perché insomma non si sentono molto tranquilli dall'avvento di questa nuova figura professionale. Come la state vedendo? La state vivendo davvero così male? Ma assolutamente no, perché per quale motivo? Non c'è nessuna confidenza, nel senso che, come dicevo prima, alla base comunque anche della nostra professione c'è già un'attività di consulenza che poi sia formalizzata in un modo contrattuale o in un altro, questo è superfluo. L'importante è farla e farla bene, insomma, nell'interesse di tutti. Allora, sentiamo questi 2 ascoltatori, poi ritorniamo ai nostri ospiti. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Posso ricordare ancora il numero verde 800 24 00 24. Invito ancora gli ascoltatori che lo volessero a fare il tagliando d'inizio anno della propria situazione finanziaria. Vedremo che spunti possiamo appunto trarre dalle loro situazioni. Marco, la sua qual è? La mia proposta è quella di fare cose che si capiscono. Secondo aspetto, stare lontano dai rumori. Sì. E poi fare cose non correlate. Cosa vuol dire fare cose non correlate? Per esempio, io se compro un BTP, compro un CCP, non è correlato. Se io compro l'euro o il dollaro, non sono correlati. Ah, quindi fare... Sì, no, adesso magari mi faccio un po' interpretare. Vedo i nostri consulenti che prendono appunti. Sì. L'8% di azionario, io ho raddoppiato il capitale. Sono sempre rimasto investito. Ho comprato sempre nei momenti, diciamo, che tutti scappavano. E questa è la cosa, diciamo, fondamentale. Non mi ricordo, Marco, il secondo punto che lei ha indicato. Fare cose che si capiscono, il secondo... prima non correlate. Lontano dai rumori. Ah, lontano dai rumori. Lontano dai rumori, anche. Certo. Le metto come vuole. No, ha ragione. Non fare, per esempio, è quella cosa che succede... È quella cosa che ha detto Warren Buffett, principalmente. Sì. Marco, la ringrazio. E studiare, leggere. Anche l'ultimo libro di Marco Lea è fondamentale. Di Marco Liera, Capire la borsa. Lo abbiamo la prossima settimana, lo dico anche questo ai nostri ascoltatori. Marco, la ringrazio. Voglio andare invece da Piera. Marco aveva un approccio molto fai da te all'investimento, questo non ce l'ha detto, che è un consulente di se stesso, lo aveva detto solo alle nostre centraliniste, ma io lo so. Piera da Lodi invece si è affidata completamente ad un promotore, mi sembra sia molto contenta. Piera? Buongiorno. Piera, buongiorno. Sì. Ecco, buongiorno. Complimenti per tutti. Trasmissione di Radio 24. Grazie. Io volevo dire della mia esperienza. Io invece sono rimasta profondamente delusa quando periodo la sentiamo ad intermittenza, faccio ripristinare il collegamento telefonico con lei, abbia solo un minutino di pazienza, proviamo a richiamarla in modo tale che la qualità della telefonata sia migliore di questa. E possiamo però intanto commentare Marco da Genova. Sul fare investimenti che si capiscono, io sottoscrivo con il sangue, firmo col sangue. Assolutamente. Perché ma attenzione, guardi che non è poi così diffuso tante volte. No, anche perché mediamente il prodotto finanziario non si capisce per sua natura, perché se una persona fa il meccanico e fa un altro tipo di lavoro, non è detto che possa anche il prodotto più semplice capirlo. Quindi... ci vuole un po' di tempo e spesso ci sono prodotti che non si possono capire a meno che uno non abbia una formazione specialistica, e ci sono anche, questo va detto, prodotti il cui prezzo si può fare soltanto se si è specialisti degli specialisti. Io sfido chiunque a saper fare il pricing di una opzione a 5 anni che ha il 20% Stelvio, di Nikkei, ma io sarò molto eccetera, più banale eccetera, eccetera. Io guardi, mi devo arrovellare il cervello per capire, ci ho messo anni a capire l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato in rapporto alla variazione dei tassi di interesse e di conseguenza alla variazione del prezzo, e ancora oggi se la devo spiegare a qualcuno mi vengono i sudori freddi. Per cui Corrado Latini, prodotti semplici, fare solo ciò che si capisce. Ma io sono, guarda, d'accordissimo. Stare lontano dai rumors. Sono d'accordissimo con l'ascoltatore Marco. Essenzialmente, diciamo, cose che si capiscono è fondamentale, perché se io non capisco il linguaggio di un film, inutile che vada a vederlo, cioè quello di fotografie che è meglio, insomma, questa è la prima cosa. E soprattutto è importante per capire anche dove sono messi i propri soldi e perché. Quindi riprendendo sempre quel famoso concetto di pianificazione iniziale, è fondamentale capire, sottoscrivere prodotti che si capiscono. Inoltre sta lontano dai rumori, le famose mode, no? La bolla tecnologica ci ricordiamo l'internet del 2000, no? Poi ne sono venuti altrettanti, eccetera. Le file in banca per comprare Tiscali, non c'era Fastweb quella volta, era Ibiscom, se non ricordo male, tutti i vari titoli tecnologici a cui tutti correvano dietro e erano schizzati in maniera esagerata. Quindi assolutamente sta lontani dalle mode, sta lontani dai suggerimenti magari dei non professionisti, no? Perché ad esempio spesso si incontrano persone che vogliono comprare un prodotto X, non faccio nome perché il suo amico ha guadagnato, allora il fatto che ha guadagnato già non vuol dire che guadagnerà ancora, tanto per cominciare, quindi già capire che cosa si sta facendo. In secondo luogo, sicuramente investimenti non correlati, e chiarisco meglio cosa vuol dire non correlati. Spesso si faceva una diversificazione comprando ad esempio la borsa italiana e la borsa borsa tedesca piuttosto che francese, pensando che fossero due mercati diversi. Anche perché noi spieghiamo sempre che devono diversificare gli investimenti, i nostri ascoltatori, quindi è sbagliato? L'asset geografica è un atteggiamento sbagliato? No, l'asset geografico è sicuramente una diversificazione, ma ha la stessa correlazione, nel senso che se le borse scendono entrambe, soprattutto in un'ottica di globalizzazione, possono andare relativamente meglio o relativamente peggio. Beh, è difficile pensare a una borsa oggi assolutamente asincrona rispetto a un'altra. Ma un promotore finanziario ce lo dice, ce lo spiega quando due mercati, due asset di investimento sono correlati o no? Ma ad esempio sì, nel senso che usando la classicissima decorrelazione storica, si pensava fino a tanto tempo fa azioni barra obbligazioni. Quindi se io voglio diversificare o decorrelare, dovrei prendere due prodotti o due mercati che hanno assolutamente degli andamenti opposti. E l'ultima cosa che poi mi interessava dire in relazione all'ascoltatore Marco è l'emotività. Bisogna considerare i propri investimenti anche il più possibile staccati dall'emotività dell'eccessivo guadagno e dell'eccessiva perdita, perché molto spesso questo è veramente uno dei fattori che fanno peggio la relazione con il proprio portafoglio. C'è un grande adesso banchiere nel nostro paese, Ennio Doris, che poi qualcuno per i prodotti che Banca Mediolanum vende vede un po' non tanto con favore per certe strutture dei prodotti assicurativi. In ogni caso io l'ho conosciuto molto bene e lui mi ha insegnato questa cosa, lui dice in ogni caso che bisogna investire in borsa tutta quella quota del proprio capitale che si è disposti a perdere. È come se fosse, adesso io non so se voi siete d'accordo con questo approccio, però potrebbe essere forse per un investitore molto prudente. Sì, è un approccio un po' drastico. È un po' forte, un po' drastico, ma ha il suo merito. Doris ha, secondo me, un genio del marketing, più ancora di quanto sia bravo come banchiere, veramente bravissimo come marketer. Quindi dipinge le cose bianco e nero per farsi capire, perché parla sempre ad investitori che hanno portafogli anche non importanti. Sì, infatti è una banca. Poi, quando sale la dimensione del portafoglio si possono fare discorsi anche un po' più sfumati. Ho anche fatto una considerazione che non c'entrava neanche con la nostra trasmissione, speriamo che non se la prendano. No. In ogni caso, posso sentire Stelvio Bo prima di lasciarla concludere, Piera da Lodi, che abbiamo recuperato e voleva raccontarci della sua esperienza, del suo rapporto con il suo promotore. Piera. Sì, eccomi. Eccoci qua lei. Mi sente bene? Sì, meglio. Ecco, la mia esperienza è stata questa. Io ho affidato prima i miei risparmi ad una banca, ad una grossissima banca, e Liliana Sissi, ho perso, adesso mi faccio ricordare, 18 anni fa, quando c'è stato comunque quell'altro, diciamo, periodo abbastanza turbolento. Sì, fino al 2003. Sì. Ho perso veramente tanti soldi, nel senso che io prima li avevo affidati, non avevo tempo né di seguirli né di informarmi troppo, eccetera. Un bel giorno ho detto, vabbè, cominciamo a prendere in mano la situazione, mi sono trovata veramente una sorpresa molto, molto spiacevole, e questa banca comunque tutti gli anni, le commissioni, si trattava di una gestione patrimoniale, tutti gli anni la banca comunque i soldi li prendeva delle commissioni sulla mia gestione. Certo. Dopodiché ho trasferito il mio, diciamo, pacchetto di risparmi ad un promotore finanziario. Mi spiace, ma non sono stata contenta neanche di questa gestione. Da quasi un anno a questa parte ho avuto la fortuna di conoscere un investitore indipendente. Tra poco, diciamo, fra qualche mesetto, tirerò le conclusioni di un anno di gestione. Devo dire che sono soddisfatta. Non solo, ho trovato veramente una grossa competenza, una grossa professionalità. Certo, l'investitore mi presenta il conto, ma d'altro canto, in maniera occulta e tante volte senza neanche conoscerle con precisione, sia le banche che comunque il promotore, dei soldini me li chiedeva comunque. Quindi io volevo solo dire che sono contenta del consulente indipendente. No, lei tra l'altro ha fatto anche una cosa intelligente, nel senso che nel momento in cui era insoddisfatta del rapporto maturato, perché non aveva i risultati che chiedeva la nostra ascoltatrice, comunque ha cambiato, no? È un po' come quando, come dire, si cerca il prodotto di qualsiasi tipo che ci serve, e magari facciamo un giro per diversi negozi, anche lì con Rado Latini, qualche volta se non si è soddisfatti del rapporto col promotore si può cambiare, perché non è detto, al di là dello strigliarlo e di guarda fai meglio, se è palesemente non adeguato a quello che ci serve, si può cambiare, comunque la scuola ha già fatto dei cambiamenti. Ci mancherebbe altro, certamente. È come il medico, si può cambiare il medico se non ci cura bene. Devo dire anche un'altra cosa, che magari ha colto questo rapporto nuovo con questo consulente finanziario in un anno in cui le borse hanno ripreso a crescere. Esatto. La dose è stata di fortuna, è stata non indifferente per il consulente. Bisogna valutare sull'arco di 5 anni, è possibile capire se il professionista a cui ci si affida è dà valore aggiunto oppure no. Questo è il termine giusto. Quanto ci costa un consulente indipendente, Stelvio Bo? Per i portafogli più bassi, che io direi dovrebbero essere di, diciamo, 100.000 euro, ma si può scendere anche a 50 per cominciare, no? Quindi si può entrare con quote non proprio popolari, ma comunque anche piuttosto modeste. Perché c'è qualche ascoltatore che ci scrive con cifre molto modeste e ovviamente dice: io sono completamente escluso da una consulenza di questo tipo, non ho la dignità, il mio risparmio non ha dignità per essere seguito in questo modo. No, ma non è questione che non ha dignità, è che il tempo che io devo dedicare a una persona che ha 100.000 euro è analogo a quello che io dedico a una persona che ne ha 500.000 o 1 milione. Certo. Analogo, dico, non è esattamente lo stesso. Sì, magari il portafoglio può essere molto più modesto anche nel numero di prodotti. Ecco, è chiaro che io posso parlare anche con chi ha il problema di investire 10.000 euro e lo faccio ben volentieri, perché non si vede che differenza ci sia. Il risparmio ha comunque grande dignità per qualunque cosa serva, di qualunque dimensione sia, per la carità. È che io non posso mantenere la mia famiglia se non riesco a portare a casa delle parcelle significative, quindi ho bisogno di un minimo ecco, certo, che è quello lì. No, volevo spendere una parola sulla reperibilità. 10 secondi sui siti di Assofinance, NAFOP, trovate gli indirizzi dei consulenti finanziari che sono in rapporto di 1 a 40 con rispetto i promotori. Quindi ancora una forza sul campo. Corrado Latini, si lascio concludere anche lei. Insomma, visto che era da tanto tempo che non veniva a Salva Danaio, questa prima puntata dedicata al tagliando finanziario, che cosa ci può far concludere oggi? Ma concludo con l'invito, che è quello veramente, che è quello che ho fatto all'inizio, cioè di veramente cercare di impostare in maniera assolutamente personalizzata la costruzione del portafoglio col proprio professionista. Comunque di affidarsi a un professionista serio, che non importa sia consulente, promotore, l'importante è che sia un professionista serio, che effettivamente interpreta il mercato nell'ottica e nell'esigenza del cliente. E soprattutto di riverificare periodicamente questo tipo di relazione, questo tipo di rapporti e risultati, per non trovarsi appunto a fare un check-up una volta l'anno, no? O una volta quando uno si ricorda, perché non è così che si può gestire il portafoglio. Vi richiamo ancora una volta fra 3 mesi per fare il check-up trimestrale, vediamo un po' magari con gli stessi ascoltatori per capire anche se la Paura Dall'Odio e gli altri ascoltatori, insomma, sono più o meno contenti di questo frangente di mercato, anche per vedere, insomma, come andrà nei prossimi mesi. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Grazie. Noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.